Cantine di Franciacorta. Bentrovati, ci troviamo a Ome, ai piedi del Monte Brione, presso la cantina Maiolini, azienda da circa 230.000 bottiglie, quasi tutte bollicine. Nel 92 il primo Franciacorta, una ricerca continua verso un tipo di vino dalle caratteristiche costanti, pur nella diversità delle annate. Sentiamo Ezio Maiolini. La Maiolini ha una caratteristica che quasi tutti i suoi prodotti rimangono dai 3 ai 4, se non ulteriori anni sui lieviti. Addirittura il Valentino Maiolini rimane quasi 10 anni sui lieviti, per cui dei vini che devono comunque mantenersi nel tempo, avere una certa struttura, ma che quando sono nel bicchiere del consumatore non devono essere vini stucchevoli, non devono essere vini pesanti, cioè, per cui un vino importante, ma nella sua importanza, nella sua complessità, un vino che sia facile da bere, un vino disponibile per tutti. Alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.